30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Mandato d'arresto per il presidente del Sudan, Omar el-Bashir, è accusato dal procuratore generale Luis Moreno Campo di essere responsabile di crimini di guerra. È la prima volta che la Corte Penale Internazionale dell'AIA accoglie una richiesta nei confronti di un presidente in carica. Il giorno successivo, 5 marzo, la Cina ha inviato una nota di protesta contro la decisione della Corte internazionale. Auspichiamo che il Consiglio di sicurezza dell'ONU, di cui la Cina è membro permanente, rispetti e ascolti l'Unione Africana, la Lega Araba, il Movimento dei Paesi Non Allineati e chieda alla CPI di sospendere le udienze di questo caso. Buonasera e benvenuti a 30 minuti in cronaca, il programma che si prende il tempo di riflettere sulle notizie che scivolano a volte troppo veloci nel nostro panorama informativo. Due dunque le notizie di oggi che ci portano in Africa all'interno di un processo di trasformazione sociale che vede una massiccia esportazione di capitali, di tecnologia, di imprenditoria e manodopera cinese nel continente africano. Il nostro ospite oggi è Paolo Woods, fotografo nato in Italia da genitori olandesi e canadesi, vive a Parigi dove torna quando può dai suoi viaggi che lo hanno portato a fotografare e raccontare con l'occhio classico del fotogiornalismo il mondo che cambia. Dall'Iraq all'Iran, dalla Cina all'Angola, Woods pubblica sui più importanti magazine del mondo. Per il suo lavoro ha meritato molti premi, mi limito a citare il World Press Photo Award del 2004 per il racconto dell'Iraq sconvolto dalla guerra. Buonasera Paolo Woods. Buonasera a voi. Allora io direi proprio di partire da uno scatto. La prima immagine è quella che descrive un signore di mezza età dai tratti orientali, occhiali rotondi, un cappellino da baseball sul capo, un telefono che immaginiamo chissà perché, un cellulare quadriband modernissimo, sempre acceso. Lei lo ha immortalato mentre intrattiene una conversazione in un cantiere. Alle sue spalle c'è una linea continua di villette bifamiliari in via di ultimazione. Potrebbe essere in qualche modo stata scattata ovunque, o magari in qualsiasi angolo della provincia cinese, se non fosse per un uomo accanto a lui, in divisa, alla pelle scura e lineamenti africani. Nella mano sinistra tiene un mitra a riposo, con la destra un ombrello con cui fa ombra a Mr. Wood. Dunque, chi è questo signore? Ma questa proprio era la nostra domanda, perché Mr. Wood è un personaggio molto importante in Nigeria, ma completamente sconosciuto, non esistente su Google prima che noi l'avessimo trovato. È un imprenditore cinese che si trova a Lagos ormai dalla fine degli anni 70 e ha messo in piedi un vero impero di industrie, di interessi nel paese più popolato dell'Africa, tanto da diventare diventato capo africano, diventato consigliere del presidente, oltre che un industriale di grande successo, talmente successo che oggi la sua sicurezza personale è garantita dallo Stato nigeriano. Il signore che è al suo fianco è un poliziotto nigeriano che è diventato la sua guardia del corpo personale, e la sua automobile per spostarsi nel traffico estremamente caotico della capitale è una macchina della polizia che può utilizzare le sirene a qualsiasi momento per districarsi dal traffico. Ecco, questo è il primo di una serie di scatti di cui parleremo, che sono raccolti in un lavoro a sei mani, un lavoro che coinvolge naturalmente Paolo Woods e i suoi colleghi Serge Michel e Michel Borot. Si chiama nella versione italiana Cinafrica, il titolo è molto esplicito: Pechino alla conquista del continente nero. Che significa conquista del continente nero? Io vi do solamente un dato: il commercio bilaterale tra Africa e Cina all'inizio del decennio superava di poco i 10 miliardi di dollari, a metà del 2007 stava superando i 50, con la promessa molto vicina di toccare la soglia dei 100 miliardi l'anno entro il 2010. Dal punto di vista, diciamo, dell'osservazione sul terreno, che significa lo sbarco dei cinesi in Africa, Woods? Ma significa un sacco di cose, significa un cambiamento totale nei rapporti tra l'Africa e il resto del mondo. La Cina in qualche maniera sta aprendo l'Africa. L'Africa non ha soltanto come interlocutori gli ex paesi coloniali, ma a un nuovo interlocutore che si pone in una maniera completamente diversa. La Cina non viene per salvare l'Africa, da un lato, non viene per colonizzarla, viene per i suoi interessi. La Cina ha una crescita ormai a due cifre da molti anni e per continuare a nutrire questa crescita ha bisogno di materie prime. L'Africa ha tantissime materie prime e quindi è un matrimonio assolutamente di interessi. Non c'è una voglia di convertire l'Africa al comunismo cinese come succedeva negli anni 70, c'è voglia soltanto di essere partner commerciali con enormi vantaggi per entrambi i lati e anche spesso dei problemi. Ancora un'immagine, questa ci porta in una fonderia, è la fonderia d'acciaio Federated Steel di Ota, siamo ancora in Nigeria. Leggo, i capomastri cinesi passano tutta la giornata in fonderia assieme agli operai nigeriani, invece di chiudersi in uffici con aria condizionata, come facevano gli ingegneri inglesi che dirigevano la fabbrica inizialmente. Ecco Woods, questa critica, neanche sottintesa, all'atteggiamento diverso degli occidentali è stata, colta da voi nel vostro lavoro o vi è stata esplicitata dagli operai e dai lavoratori africani? Da entrambi le cose, è qualcosa che si possiamo constatare. Molti africani ci hanno detto in vari paesi, i cinesi sono pronti a vivere come noi, sono pronti a partire da dove siamo noi. 20 anni fa la Cina era un paese spesso più povero di molti paesi africani, oggi vedete la Cina dov'è, sarà presto la prima potenza mondiale e quindi noi crediamo di poter fare come i cinesi. Come fanno i cinesi? Partono dal basso, non hanno paura di sporcarsi le mani, quindi un ingegnere cinese oggi che arriva in Africa può essere pagato $200 al mese ed è spesso qualificato come un suo collega francese o inglese e lui non avrà paura di dormire per terra, vivere una vita come gli operai e vivere con gli operai. E questo permette poi ai cinesi di investire in maniera massiccia e con dei ritorni, senza spendere capitali enormi per mantenere della forza lavoro occidentale in Africa. I cinesi dunque arrivano sempre più massicciamente in Africa, abbiamo sentito anche con una modalità diversa rispetto a quella che è stata propria anche tanti anni fa degli occidentali, ma c'è un'altra immagine di cui vorrei parlare e che ci porta attraverso, lo ricordo, le fotografie scattate da Paolo Woods in questo lungo viaggio di cui anzi tra un po' ci dovrà raccontare perché sono molte immagini e credo anche molte settimane di lavoro, ma dicevo ci porta in un liceo, il liceo Savorgnan de Brassà, quindi uno storico esploratore italiano naturalizzato francese che di fatto aprì e in qualche modo regalò il Congo alla Francia. Ecco, in questa immagine si vede una lavagna colma di caratteri, di ideogrammi cinesi. Leggiamo, i 4 corsi di cinese sono presi letteralmente d'assalto dagli studenti. Il professore Jean de Dieu Malanga, che ha studiato in Cina negli anni 80, è stato costretto a lasciare il lavoro di interprete presso l'impresa edile VXT per far fronte a una simile esplosione di iscrizioni. Insomma, i giovani africani vedono un futuro in questo sbarco dei cinesi. È chiaro, è importantissimo questo. Noi vediamo che la lingua francese sta perdendo in tutti i lati dell'Africa occidentale e la Francia in qualche maniera si è dimenticata dell'Africa, mentre oggi se io sono un giovane congolese e voglio fare affari con la Francia sarà quasi impossibile per me ottenere un visto francese. Se invece voglio ottenere un visto cinese per andare a fare affari in Cina, comprare un container per esempio di telefoni cellulari o abiti o qualsiasi cosa, i cinesi mi daranno un visto, potrò andare in Cina, potrò prendere questo container e potrò svilupparmi in qualche maniera, diventare veramente un businessman. Quindi oggi la Cina offre delle possibilità ai giovani africani, mentre l'Occidente sempre più chiude le porte all'Africa. Ancora uno scatto prima della pausa, è proprio un'immagine accanto, c'è un signore cinese che sorride all'obiettivo, al tuo obiettivo, sul trampolino di una piscina e leggo Ki Kiang Chang, detto Philippe Chang, era corrispondente a Brazzaville dell'agenzia di stampa Nuova Cina, ma quello che mi interessa in questo scatto è che dice la sua villa di Pointe Noire era l'ex residenza del console tedesco. C'è anche una, come dire, un'occupazione fisica di spazi in precedenza tenuti dagli occidentali. Sicuramente, sicuramente, questo è molto importante. Io penso che Philippe Zhang sia particolarmente orgoglioso di questa cosa, ce l'ha ripetuto varie volte. Stanno diventando una presenza molto chiara, molto forte, dovunque si va in Africa. Ora tutti vi diranno che una delle cose che sta cambiando il panorama economico e geopolitico dell'Africa è la presenza cinese. Non è la stessa cosa, non stanno investendo, non stanno comportandosi nella stessa maniera in cui si comportano gli occidentali, però sicuramente stanno prendendo posto, è un posto molto importante. Philippe Zhang è qualcuno con cui abbiamo passato molto tempo, è qualcuno con cui siamo andati per giorni con lui nella foresta del Congo, dove lui ha concessioni forestali enormi per tagliare il legno, ed è qualcuno che con noi è stato molto onesto, aperto, raccontandoci come un cinese da piccolo giornalista inviato dallo Stato cinese può diventare un grande imprenditore. 30 minuti in cronaca. Ancora bentornati a 30 minuti in cronaca. Questa sera siamo in Africa, nell'Africa scoperta e vissuta in questi anni dai cinesi. Siamo con Paolo Woods, che è fotografo e che ha realizzato assieme a Serge Michel e a Michel Borot un lungo reportage nella versione italiana pubblicata dal Saggiatore. Si chiama Cinafrica, il sottotitolo esplicito: Pechino alla conquista del continente nero. Bene, ci siamo lasciati pochi momenti fa, diciamo, con il sorriso di Philippe Chang, che corrispondente a Brazzaville dell'agenzia di stampa Nuova Cina, che diventa invece qualcos'altro, direttore di Sicofor, la compagnia forestale di famiglia che sfrutta concessioni per 800.000 ettari. Direi di andare all'immagine successiva. L'immagine successiva è scattata, immagino, in mezzo alla giungla, in una notte dedicata alla caccia. C'è un ragazzo africano che tiene, diciamo, la preda, quello che è stato cacciato. Che notte è stata? Raccontacela, Paolo Woods. Ma è stata una notte molto interessante, nel senso che noi avevamo conosciuto Philippe Zhang e ci aveva raccontato delle sue imprese di legname e delle sue concessioni nella foresta del Congo. E avevamo chiesto di poterci andare, noi volevamo vedere, per me come fotografo è essenziale vedere le cose direttamente, e quindi dopo 10 ore di fuori strada per delle sterrate della foresta siamo arrivati dove stavano in effetti tagliando questa foresta. E ci siamo resi conto di due cose. La prima cosa è che eravamo nel mezzo di un parco nazionale congolese, dove in teoria non bisognerebbe tagliare gli alberi. La seconda cosa è che gli operai, tutti congolesi, in realtà non sono nutriti dal loro datore di lavoro, e quindi sono così lontano da qualsiasi villaggio che loro di giorno tagliano la foresta e di notte vanno a cacciare nella foresta per nutrirsi. E quindi abbiamo chiesto di andare con loro a vedere questo la notte, e siamo andati a caccia, e in questa occasione ci ha accompagnato anche Philippe, che non era mai stato nella foresta di notte. Ah, quindi questa non è una battuta di caccia sportiva, questo è il modo per procacciarsi il cibo. Esatto, sì, è un modo per cacciarsi il cibo in un luogo così isolato, è l'unica maniera, perché non hanno riserve di cibo lì, e i cinesi non gli forniscono delle riserve di cibo, quindi loro si nutrono di quello in inglese chiamano game, gli animali della foresta. Quindi l'impatto di questo di questa attività nella foresta del Congo è doppio: da un lato sugli alberi, dall'altro sulla fauna. E soltanto che dopo un paio di ore che vagavamo nella foresta alla ricerca di prede, la nostra guida congolese ci ha detto che eravamo completamente che era completamente perduto, non sapevamo più dove eravamo, e che la cosa migliore era continuare a cacciare il resto della notte e all'alba avremmo ritrovato il campo base. L'inquietudine ha preso il sopravvento soprattutto di Philip Zhang, che non era mai stato nella foresta, normalmente abituato a vivere in una casa con l'aria condizionata, come avevamo visto nella foto precedente. Dopo ore e ore di camminare nella foresta abbiamo deciso di fermarci e dormire, fare un fuoco e rimanere lì il resto della notte, circondati da tutti i tipi di rumori e animali possibili e immaginabili. Un campo nella notte africana. Esatto. Ed è stato proprio in quel momento lì che tra la paura e l'incapacità di prendere sonno abbiamo avuto una discussione lunghissima con Philippe, che non era più un'intervista, non eravamo più noi giornalisti e lui l'intervistato, ma eravamo persone che si parlavano, ed è proprio per questo quello che noi in qualche maniera cercavamo, è di riuscire a entrare in contatto con questi cinesi in Africa, che così spesso se ne era parlato nella stampa, ma così raramente si era riusciti a avvicinare, a conoscere. Che cosa pensano magari in queste conversazioni notturne, come a volte succede, le persone si aprono realmente? Cosa pensano i cinesi degli africani? Ma diciamo che all'origine il cliché, che è piuttosto vero, che da entrambi i lati c'è abbastanza razzismo. Sono due popolazioni, se vogliamo parlare dell'Africa come popolazione, che è una generalità enorme, ma sono due mentalità lontanissime, forse le due mentalità più lontane che si possa immaginare. Però in realtà poi spesso avviene che per pragmatismo, per necessità, si riescono a avvicinare, ci possono essere non soltanto interessi in comuni, ma riescono a condividere più cose. Sicuramente a vari livelli esistono delle amicizie che si formano, anche se non è la cosa più normale. Insomma, si stanno anche scoprendo. Africa, Africa, yeah. Sempre con Paolo Woods e con le sue immagini dal Congo allo Zambia. Ce n'è una che ancora una volta sono molto colpito dagli scatti in cui esiste quasi una dilatazione dello spazio e del tempo. Ce n'è uno che racconta un'azienda agricola a nord-ovest di Lusaka. Anche in questo caso, chissà, forse è il cielo che ci suggerisce di essere in Africa, perché è così azzurro, così difficile trovarlo con questi colori in Cina. Ecco, i cinesi arrivano anche per occuparsi di agricoltura, quindi non solo sfruttamento delle materie prime in senso tradizionale, quindi dei minerali e naturalmente del legname. No, certo, bisogna pensare che i cinesi vengono e si interessano a tutti i settori possibili e immaginabili. La Cina si interessa come paese all'Africa, quindi a livello di Stato, ma anche un piccolo agricoltore dello Sichuan, per esempio, che ha un terreno dato dal governo che gli permetterà soltanto un'agricoltura di sussistenza, ha assolutamente interesse poter andare in Africa e con un piccolo capitale iniziare a investire, e poi con un lavoro durissimo di cui i cinesi sicuramente non hanno paura, via via svilupparsi. Spesso quello che iniziano a fare come agricoltori è a soddisfare una domanda locale della comunità cinese. I cinesi dovunque sono nel mondo sappiamo che continuano a adorare, a mangiare la loro cucina, e quindi per esempio in Africa coltivano le verdure, i legumi e i frutti cinesi per la loro cucina, quindi prima per un mercato interno, e poi quando gli affari iniziano ad andare bene riescono a diventare dei veri imprenditori agricoli. C'è dunque anche un bracciantato cinese, un po' in qualche modo mi ricorda quello che storicamente costruì materialmente le ferrovie americane per raggiungere la California. I famosi coolies. I famosi coolies. Sì, no, sicuramente oggi se noi per esempio eravamo a gennaio in Cina, stiamo seguendo la storia di cinesi, questi veramente operai che firmano dei contratti con delle ditte cinesi che fanno grossi progetti in Africa, per andare come operai per 2 anni minimo, sono dei contratti minimo di 2 anni, e per 2 anni lavoreranno incessantemente su un progetto cinese in Africa, e loro vivono lì in campi completamente separati dal resto della popolazione, lavorano durissimo e il salario viene riversato direttamente in Cina alla loro famiglia. Dopo 2 anni spesso questi cinesi cercheranno di rimanere in Africa, gli operai, e poi diventare loro stessi piccoli imprenditori e iniziare un'attività che può essere vendere accessori di telefoni cellulari fino a diventare grossi imprenditori, o altri invece rimanere semplicemente lì e fare la loro vita in Africa. Ci sono dottori cinesi in Africa, ci sono saloni di bellezza cinesi in Africa ormai. Insomma, tutto tende a cambiare anche in Africa. Un ultimo scatto, in questo caso vediamo una donna che pettina il suo bambino, il bambino da lineamenti orientali con una pelle appunto più scura del carattere africano. Essendo per metà cinese, da quando è nato, Jonathan Kalunga è stato motivo di imbarazzo per la madre Vivienne e per la famiglia. Anche questo, se vogliamo, è un grande classico degli incontri. Le società occidentali in Africa hanno di fatto mantenuto una sorta di separazione, forse con l'eccezione della colonizzazione portoghese in Angola e Mozambico. I cinesi che tipo di rapporto potranno avere con le comunità che ora di fatto frequentano? Ma diciamo che da entrambi i lati sicuramente questo tipo di rapporto è fortemente scoraggiato. Gli operai cinesi che hanno rapporti con donne locali sono rimandati immediatamente in Cina e spesso le autorità di molti paesi dove siamo stati non vedono di buon occhio l'idea che ci sia questo tipo di rapporto isolati, però è inevitabile, inizia a succedere. Abbiamo visto bambini mezzo cinesi e africani in vari stati. Non è a non è, i numeri non sono molti ancora, ma io vedo chiaramente che questo non potrà non cambiare. E naturalmente non è che è un fenomeno all'inizio, che compie i suoi primi passi. Chiaro. In una sola battuta, quante settimane di lavoro attraverso gli stati africani hanno portato alla raccolta di queste bellissime immagini? Ma noi abbiamo lavorato su questo progetto per 2 anni, facendo una decina di viaggi in Africa, e ogni volta, ogni viaggio era dalle 2 settimane al mese. Grazie a Paolo Woods per essere stato con noi questa mattina. Lo ricordo, questo è una raccolta di immagini intorno a un lavoro a 6 mani che è stato realizzato con Serge Michel e Michel Borot. Potete trovarlo nella pubblicazione di Cina Africa, pubblicato in Italia dal Saggiatore, Pechino alla conquista del continente nero. Una bellissima raccolta di immagini raccontate per visualizzare quello che sta accadendo in molte zone dell'Africa. Noi siamo arrivati alla conclusione, a me non resta che ricordare che potete trovare anche il promemoria dei libri di ciò di cui parliamo in trasmissione all'interno di www.radio24.it. Ringrazio naturalmente il nostro ospite, il nostro Carmelo Lauricella in regia. 30 minuti @radio24.it per le vostre mail. E con questo è tutto, non mi resta che augurarvi un ottimo fine settimana.